Il punto di Stefano Folli. E così siamo arrivati al gran giorno. La regia, non c'è dubbio, è eccellente. Prima il voto finale alla Camera sulla nuova legge elettorale, un evento quasi storico, comunque si voglia giudicarla nel merito. A seguire il Consiglio dei Ministri, che promette un intervento semi-rivoluzionario sugli assetti tradizionali del nostro sistema amministrativo burocratico e nel modo stesso di concepire il rapporto fra governo e cittadini. In pratica Renzi deve dimostrare di aver trovato le risorse per finanziare le sue riforme, quella dell'IRPEF per i redditi bassi e, si spera, del cuneo fiscale per restituire un po' di competitività alle imprese. A sentire il Premier saremo tutti stupiti con effetti speciali mai visti prima. E davvero bisogna augurarselo dopo tanta attesa, purché non sia solo un gioco di prestigio, o peggio non sia il gioco delle tre carte, in cui a vincere, e non in modo trasparente, è sempre colui che sa muovere le mani con destrezza. Dopo aver creato un'aspettativa così grande, Renzi non può permettersi il lusso di deludere.